Abbiamo ospiti questa sera a tavola rasa Enrico Gargiulo, Gianluca Bascherini, entrambi professori universitari, uno a Bologna, l'altro a Roma, e loro li abbiamo coinvolti per fare una chiacchiera sulla rappresentazione della polizia nei romanzi di genere. Tra l'altro entrambi saranno, per chi ci ascolta in diretta domani a Bologna, un seminario che si occupa più o meno dello stesso tema, è più incentrato sul noir se non sbaglio, poi magari aggiungete voi due parole, però sarà pure perché è un vecchio pallino mio e della redazione, ci andava di fare una chiacchiera insieme appunto su come la rappresentazione della polizia nel romanzo, soprattutto nel romanzo italiano appunto, da tot anni a questa parte, ha preso una china abbastanza marcata, ossia di personaggi molto poco rappresentativi di quella che poi è la polizia, ma anche semplicemente le cronache di tutti i giorni. Comunque, benvenuto Enrico, benvenuto Gianluca. Allora, da cosa vogliamo cominciare? Io farei, prima di tutto, lascio a voi una piccola distinzione su noir, thriller, poliziesco, che spesso viene messo tutto insieme in primis dagli editori, un po' perché la parola noir forse è più affascinante della parola giallo, quando entrambi hanno comunque dei precisi codici e hanno anche delle storie molto importanti a livello narrativo e letterario. Chi vuole iniziare fra voi due? Fate voi. Ma io se vuoi posso dire due parole su questa cosa, ma insomma Enrico ci ha scritto e ci ha ragionato forse più di me su questo. Se dovessi dire proprio, come dire, come definire il giallo e il noir, usiamo queste categorie che sono quelle poi più diffuse. Il giallo, vabbè, nascono in momenti diversi, ma insomma il giallo tendenzialmente racconta che cosa? Racconta una rottura di un ordine sociale percepito in sé come positivo. C'è un'indagine, l'indagine è fondamentalmente basata su un metodo scientifico, su un metodo logico, è basata sulla razionalità e quell'indagine punta a ricostituire quell'ordine sociale, a catturare il colpevole e a punirlo. Ovviamente la polizia in questo, polizia o investigatore che sia, giocano un ruolo fondamentale. Il noir forse nasce più tardi e tende più che a raccontare, come dire, una società ordinata, tende a raccontare le contraddizioni o i conflitti che attraversano una certa società, una certa idea di ordine. Il bene e il male nel noir sono un po' più confusi che non nel giallo classico. Quindi, che ne so, se dovessi dire, direi che il giallo tende a svolgere una funzione rassicurante, dove il bene vince sempre sul male, invece il noir dovrebbe piuttosto disturbare, dovrebbe evidenziare i conflitti. Mo se vuoi, cioè, secondo me questa è una distinzione che vale per quello che vale. Lo dicevi pure te, Fabrizio, è un mercato quello del giallo sempre più bulimico. E allora in un mercato crescente è chiaro che anche i generi tendono a ricombinarsi. Non so, Enrico, se voleva intanto dire Sì, guarda, qualcosa. sulla distinzione, quelle cose che ha detto Gianluca sono chiarissime, non ho praticamente niente da aggiungere. L'aspetto interessante, qui aggiungo un elemento specifico, qualcosa nel senso, racconto prima, per farlo racconto come ci sono arrivato io. Di base io non mi interessa, non studio la letteratura, non sono un sociologo che studia la letteratura, sono un lettore di noir, e vorace, appunto, con mille curiosità e interessi da questo punto di vista, ma sono arrivato a studiare questa roba qui perché mi interesso invece da studioso di polizia e in particolare di celerini, di reparti mobili. Ho studiato i manuali e attraverso lo studio dei manuali ho cercato di capire un po' come ragionano, che categorie usano. Che è successo? Che proprio nel periodo in cui cominciavo a interessarmi allo studio dei manuali, una decina di anni fa, mi sono imbattuto in una serie di romanzi. Uno in realtà l'avevo già letto, ACAB di Bonini del 2009. Un altro l'avevo visto all'epoca in libreria, l'avevo anche comprato ma non l'avevo letto, si chiama Genova era d'oro e d'argento di Giacomo Genzini, Strade Blu Mondadori, e poi proprio in quel periodo usciva Avviso coperto di Gazzaniga, altro romanzo premiatissimo, premio Calvino, poi parliamo anche di questo. E praticamente che cosa è successo? Che mi sono accorto che c'era una fortissima convergenza nelle categorie interpretative tra i manuali e questi romanzi. Allora, nel tempo poi ci ho ragionato su e un paio d'anni fa, due o tre anni fa, ho scritto un pezzo che non sono mai riuscito a pubblicare e che Gianluca ha letto, che sarà poi quello che presenterò la settimana prossima, in cui parto da una categoria che introduce il nostro collega Luca Martini di Bologna, che parteciperà a sua volta al seminario, di realismo sovversivo. Lui insiste molto su, appunto, sul realismo del noir che sovverte l'ordine. Manchetti francesi più radicali, dove chiaramente ci sono dei personaggi, come c'è uno, fortemente, cioè, i personaggi compiono gesti radicali, ma l'occhio dell'autore, diciamo che simpatetico, potremmo dire, no? con questi soggetti. Izzo per altri versi, ecco. In Italia succede una cosa un po' diversa, che l'impressione che già anticipava Gianluca, che in alcuni casi sembra che ci siano personaggi sovversivi, che le storie siano sovversive, che l'approccio sia sovversivo, in realtà è qualcosa di un pochino più ambiguo. I romanzi sui Cellerini sono interessanti perché si presentano come iperrealisti, cioè ti descrivono brutalmente quello che succede. Di quelli che ho letto io, due sono tre, sono scritti da personaggi che hanno... Gazzaniga era un Cellerino all'epoca, poi credo si sia dimesso perché si è messo a fare lo scrittore, non sono sicuro. Genzini dice di aver fatto il militare nella Celere, questa è la descrizione che dà nella quarta di copertina e che racconta in un'intervista che si trova online. Bonini non è un poliziotto, ma come sappiamo è abbastanza vicino, diciamo meglio che ha accesso a informazioni che i comuni mortali non hanno, tra cui l'intranet doppia vela su cui ha costruito ACAP. Quindi l'operazione che succede in questi romanzi, poi ci torno, adesso intanto chiudo per non appesantire, è qualcosa secondo me che ho chiamato nel paper che presenterò realismo conservativo, cioè questo iperrealismo non ha nulla di sovversivo, si presenta come un realismo che ti spiattella in faccia la brutalità, lo schifo della realtà, ma una funzione sociale e politica è quella di conservare l'ordine, quindi appare come il noir, se vogliamo, che dovrebbe essere un po' incentrato sulla sovversione o quantomeno sulla messa in discussione dell'ordine, in realtà la funzione del vecchio giallo, conservare l'ordine esistente, poi magari dopo ci torno. Ecco, mi ha detto delle cose molto interessanti, tra l'altro hai citato un paio di romanzi che all'epoca lessi, sia Gazzaniga che quello di Bonini, e sono anche abbastanza d'accordo che con la lettura che stavi cominciando a dare, poi proveremo ad approfondire. È vero che noir, tanto quanto il giallo all'estero, forse è un po' diverso da quello che viene prodotto in Italia, non semplicemente perché i maestri del noir, e quindi parliamo della letteratura americana dei primi 50 anni del Novecento, ci fanno un racconto, dei racconti che sono innanzitutto sempre dalla parte di chi commette il crimine, non sono mai dalla parte della polizia, e quasi mai ci sono dei agenti, dei poliziotti tra i protagonisti, degli autori più importanti. Sarà che io sono un fan di Jim Thompson, hai citato Manchette, un altro che adoro, però mettiamola subito in chiaro, Izzo, a tutti noi probabilmente che ascoltano questa trasmissione, ce l'abbiamo nel cuore, il suo per Fabio Montale, gli abbiamo voluto bene, tutto quello che vogliamo, ci mancherebbe, però ecco, Izzo ce ne sta uno, basta e avanza. Questa narrazione del poliziotto mezzo compagno, penso allo Schiavone di Manzini, che nonostante poi siano romanzi ben scritti, che funzionano, non c'è nulla da togliere, però probabilmente quel personaggio lì è un personaggio molto irreale, il personaggio, cioè il poliziotto antirazzista che si fa le canne, tranquillo e via dicendo, perché le cronache ci raccontano, i quotidiani ci raccontano altro, lì a scuole di polizia formano su ben altri valori e ben altri principi di quelli che poi ritroviamo tra le pagine di questi personaggi. Io ora non sto dicendo che c'è un'operazione ideologica da parte di chi scrive, eccetera, eccetera, però nel mercato vengono presentati quasi solo romanzi che raccontano queste figure. Io sono uno che leggeva moltissimi thriller, noir, polizieschi, e da un po' di tempo a questa parte faccio fatica, non le leggo quasi più, ma perché a me mi ha stancato, ecco, questa rappresentazione, mettiamola così. Cosa c'è dietro? C'è un'operazione ideologica? Io non lo credo che ci sia un'operazione ideologica, penso che si torna molto sulla cultura di questo paese, e sono d'accordo con quello che dicevi prima sul fatto che si prediriga più una narrazione rassicurante, sì, ci sono i cattivi, un po' come qualsiasi notizia che riguarda le forze dell'ordine viene derubricata alcune mele marce. Certo, ma questo però diciamo da una parte ha a che fare anche col fatto che con quella che chiamiamo letteratura di genere, che parliamo di romanzi d'avventura, che parliamo di romanzi rosa, che parliamo di poliziesco, ci ha sempre avuto una funzione commerciale. Allora io su Certo. questo sono d'accordo con te, non è tanto un'operazione ideologica, credo che sia semplicemente una questione di mercato. Oggi vende quel tipo di poliziotto, forse come dire. Non lo so, io, una cosa che mi faceva riflettere, poi ci pensavo proprio leggendo un lavoro di Enrico, sempre più spesso questi libri sono scritti da poliziotti, da avvocati, da ex magistrati, anche questo probabilmente contribuisce, come dire, a orientare in un qualche modo la rappresentazione di queste figure. Ci vogliamo mettere anche tutta l'operazione, come dire, simpatia con i poliziotti nelle scuole? Che di qualsiasi argomento si deve parlare, ormai nelle scuole vanno le guardie a parlarne, che si tratti di droga, di bullismo, di quello che vi pare. Di cybersicurezza, questa roba qua, sì. Cybersicurezza, invitiamo il poliziotto e ne parla. Allora, cos'è la polizia che si apre alla società? Non riesco a vederci un progetto dietro a questa roba. Ci vedo veramente come dire, un atteggiamento del mercato. Un atteggiamento del mercato che spiega anche quelle figure che dicevi te, di questi poliziotti antieroici, simpatici, per cui si fanno le canne, per cui c'è Montalbano che non mi ricordo in quale libro è, forse Il Giro di Boa, critica la Bossi Fini, c'è Petra Delicato che è una poliziotta lesbica, c'è Theoda Kean, questo che è uscito adesso con La Manotti, questa scrittrice francese che è bisex. Tutte figure che in qualche modo rimandano, come dire, a delle che danno una spolverata, come dire, di alternativo, di sovversione a una sostanza che rimane poi fondamentalmente conservativa di questi libri. Credo che questo dipenda, forse nel caso italiano più che in altri, forse questa, come dire, questa letteratura di ammiccamenti è più forte da noi che in altri paesi, non lo so, però appunto. Anche io, come dire, sono un lettore dei gialli, non uno Esatto. studioso. E nonostante mi abbiano abbondantemente rotto le scatole, perché poi ritrovi sempre dentro quello stesso schema, a me mi funziona. C'aveva ragione Gramsci quando diceva che il giallo è un oppio. A me mi funziona, mi consola. La sera me lo leggo e ci sto bene, non perché sono contento che il bene vince sul male. Ma per un altro tratto che secondo me è importante della letteratura di genere, che è la serialità. Questi romanzi spesso non sono un romanzo, sono una serie. E in questa serie noi ritroviamo, come dire, gli stessi personaggi, ritroviamo gli ambienti. E quello che ci diverte magari è la storiella che volta per volta ci sta dentro. Ma hai detto bene te, Fabri, alla lunga. Questa serialità, la ripetizione di certi schemi, di certi stereotipi, annoia. Allora, andava ovviamente, ci è piaciuto a tutti Machete, ci è piaciuto a tutti Izzo, ma ci metterei dentro pure, che ne so, Scerbanenko, Elroy, forse ce ne Sì. saranno No, pure tanti ce ne altri. stanno tanti, assolutamente, assolutamente. Però io quello che mi chiedo e che anzi mi farebbe piacere discuterne con voi, ma quello che ci piaceva di quei libri era una valenza, come ricordava prima Enrico, parlando del lavoro di Luca Martignani, sovversiva o semplicemente quei libri avevano una capacità disturbante? Cioè, sospendi il giudizio, non mi fai la morale, mi racconti qualcosa e lasci al lettore, come dire, di posizionarsi, di riconoscersi o meno. In un certo personaggio e di ragionarci sopra, perché poi per me, come dire, sarà che per come io ho studiato, vabbè, io mi occupo di diritto e sulla letteratura ci sono arrivato lavorando su diritto e letteratura. A me quello che mi interessa è l'approccio critico che la letteratura può dare a una qualsiasi riflessione sulla società. Allora io mi dico, ma come dire, il carattere sovversivo di certa letteratura o è piuttosto magari l'aspetto disturbante, quello che ci può, che poi rende un libro, come dire, appunto critico nel senso migliore del termine, critico nel senso che diventa anche uno strumento per porsi una domanda. Sì, io ripartirei proprio dal ruolo della critica, quello che mi pare che sia totalmente assente, No, qua premetto, non voglio generalizzare, dico totalmente assente, nel noir italiano un po' mainstream, cioè tutti gli autori, tranne Scerbanenko, ma quelli contemporanei di cui stiamo parlando, Manzini è rappresentativo di questa tendenza, anch'io sono a metà, li trovo rilassanti, mi diverto, sono belli da leggere, però hanno dei problemi enormi, adesso ci arrivo, è che mi pare manchi totalmente uno spirito critico rispetto all'ordine sociale, alla funzione storica della polizia dentro quest'ordine. Manchetti, Zoo, questa critica la esplicitano, cioè, in ogni riga si capisce che parlano di una società capitalistica intrinsecamente diseguale, al cui interno la polizia non deve acchiappare i cattivi, deve mantenere l'ordine. Storicamente la polizia è questo, è un'agenzia che si specializza nel corso dei secoli come soggetto di riprodurre un ordine sociale, e questa roba qui appunto può traspirare o meno da un romanzo noir. Quelli italiani di cui stiamo parlando non mi pare che traspaia, anzi, esattamente il contrario, nel senso che, per dire, anche lo Schiavone, se fa le canne, però alla fine ruba e molto spesso i soldi se li mette in tasca per cose personali, non c'è una critica, è antirazzista nel senso che magari aiuta ogni tanto l'immigrato, ma non è che mette mai in discussione veramente l'istituzione di cui fa parte, o non c'è mai una riflessione sulle disuguaglianze, come sono prodotte, che ruolo ha la polizia nel contrastarle o meno. E quindi alla fine finisce per essere rassicurante la misura in cui umanizza il personaggio del poliziotto. Dice, vedi, non è che sono tutti cattivi, dice questo che è un po' fricchettone, tutto quanto, un po' nell'illegalità, però alla fine sta lì, non si dimette, poi non sono arrivato fino alla fine. Montale, se non sbaglio, si dimette, no? Tra il primo e il secondo, quindi se ne va pure, diceva, a un certo punto io che ce sto a fare qua? Sto semplificando proprio per capirci. Questa funzione critica mi pare che sia totalmente assente, ed è molto grave perché... Credo che chi scrive noir, se veramente ha uno sguardo da sinistra, dovrebbe partire proprio da questa dimensione. Invece la sensazione qual è, e torno a un'altra cosa che avete detto prima, è il problema che abbiamo in Italia col concetto di legalità. Se a scrivere noir sono ex giudici, caro figlio De Cataldo per capire, o personaggi che non hanno una visione critica appunto sul ruolo della legge e i rapporti di forza che stanno dietro al diritto, non andiamo molto avanti, perché alla fine la critica può essere appunto al poliziotto razzista, la critica può essere alla Diaz al G8 come accade in Montalbano, ma non si va oltre, anzi, nel Montalbano, anche io parlo, mi ricordo meglio l'episodio della fiction televisiva, il discorso che fa su Genova, appunto, lui si vergogna perché capisce in quel momento che la polizia sembra tutta marcia, non c'è solo almeno la marcia. Poi arriva alla conclusione che non è così, infatti lui ci rimane dentro, no? Quindi è stata una roba gravissima, ma è un'eccezione. E anche lì, quella è la scusa per dire, ma se è successa sta roba a livello sistemico, sarà che qui non stiamo a reprimere i cattivoni che sfasciano le vetrine perché sono cattivi, ma stiamo qui a difendere qualcosa di un pochino più complesso? Mettiamo in discussione il nostro ruolo? No. E qual è quindi la cifra? Il moralismo, la spoliticizzazione. Un altro carattere che trovo devastante è spoliticizzare. Mentre Manchetti e Zoo politicizzano, qua in Italia si tende a cancellare quella dimensione, giocando tutto su un piano morale. Alla fine si gioca tutto su un asse buoni cattivi. Non è la politica intesa come struttura, come interessi, come attori in gioco che portano avanti degli interessi diseguali. E allora lì devo posizionarmi con chi sto, no? Con chi è oppresso e con l'oppressore, semplificando. Questa dimensione mi pare totalmente assente. È un gioco di buoni e cattivi. Poi magari ci arrivo nei romanzi, su Cellerini è l'odio il fattore chiave. No? Se l'odio diventa qualcosa che diluisce tutto, c'è l'odio nella società, tutti ne siamo contaminati e quindi spariscono i fattori strutturali. Quindi la critica scompare perché è una critica apparente, alla fine è una sorta di gioco a buoni e cattivi su un piano morale non politico che non aiuta a vedere qual è la struttura della società, in questo senso quindi a attuare un realismo sovversivo, ma anzi confonde le acque, in questo senso diventa anche, ripeto, qui non voglio cadere in cose complottate, non c'è un disegno, alcuni autori magari sono in linea con le visioni, esatto, del Ministero della Questura, e lì continuiamo sull'onda della retorica della polizia democratica, di un processo di washing che la polizia fa da decenni, altri sono in totale buona fede, quindi non penso che siano attori espliciti di questo gioco, però questo gioco poi lo fanno, perché non hanno gli strumenti, la capacità o la voglia, non lo so, di andare fino in fondo con una lettura critica. Quindi dovresti dire proprio la critica, intesa come critica sociale e politica, all'ordine esistente, è qualcosa di totalmente mancante, almeno negli autori e nelle autrici che mi è capitato di leggere in Italia. Però qui sospendo perché non mi voglio presentare come un esperto di noir che conosce a tappeto tutto quanto. Per quello che ho potuto vedere io, non vedo una grande... Ovviamente stiamo citando gli autori e i personaggi che vanno per la maggiore, quelli che vendono decine di migliaia di copie, sì. Ovvio, no? Perché nel magma della produzione italiana ci può essere di tutto. Noi ovviamente ci fermiamo a quelli che sono, quelli che poi vengono trasportati in televisione attraverso appunto la fiction, anche quelli più letti semplicemente. Io credo che ci sia da parte di molti che scrivono un approccio culturale e politico che non li porterà mai a mettere in discussione, no, tutta una serie di cose, tra cui appunto come svolge il loro lavoro, le loro funzioni, la polizia. Probabilmente aderiscono a quel pensiero e la risolvono come fa la maggior parte anche di media mainstream da destra e sinistra, con la teoria delle mele marce, che non c'è un problema insito all'interno di quella struttura, ma è qualcuno che ha dallo di matto. E quindi, no, di nuovo, no, e loro non fanno altro che produrre una narrazione che va assolutamente in tendenza a quella che è di tendenza. Tutto l'altro, Enrico, avevi scritto per il ventennale di Genova, uscito per Jacobin, un articolo che si chiama Il blocco noir, che andava proprio a analizzare questi tre libri che citavi prima, usciti negli anni successivi al G8 di Genova, che ovviamente anche lì non è un'operazione decisa a tavolino dai tre autori che a distanza di anni sono messi, no, si sono riuniti, allora quest'anno esco io, l'anno prossimo tu, quell'altro ancora tu. Però nella narrazione che fanno tre autori completamente diversi come estrazione, cultura e via dicendo, e se vuoi di quei tre almeno un paio si esplicitano come sinceri democratici di sinistra, c'è tutto un filo che li unisce, che è quello che raccontavi e che se ti va di fissare di nuovo. Sì, poi passo la palla a Gianluca, assolutamente. Quel pezzo lì è un po' la sintesi dell'articolo più lungo che non sono riuscito finora a pubblicare, e qui non apro polemiche sulle riviste accademiche, finisco qui, ma non per la qualità del lavoro, perché può essere discutibile ovviamente, però. Comunque sì, lì dentro c'è un'analisi di questi tre romanzi, anche una ricostruzione delle date, perché due escono a cavallo tra dei processi sulla Diaz e Bolzaneto, e anche quello di Gazzaniga, più o meno segue lo stesso percorso, escono i momenti chiave, non c'è un disegno sicuramente, i tre autori non si conoscono, anche se in realtà delle connessioni editoriali ci sono. Esatto. Nel senso che Acab esce per Einaudi, Genzini esce per Strade Blu, l'anno dell'uscita c'è un video su YouTube, un festival scrittori di carta, non ricordo bene, nell'articolo che non ho pubblicato, nota, metto tutti i link YouTube, dove c'è questo dibattito pubblico in cui, moderato da Carlo Lucarelli, che ovviamente ha un peso editoriale nelle scelte, credo, di entrambe le collane, in cui ci sono sia Genzini sia Bonini, e dicono delle cose interessanti in più proprio sul ruolo della polizia, dell'ordine, della legalità. L'agenzia a un certo punto dice: dove non c'è la polizia c'è la mafia, una roba del genere. Anche questa lettura proprio legalistica, questo immaginario la mafia come una cosa estranea allo Stato, e se interrompiamo il flusso della legalità arriva la mafia, no? E non apro parentesi su altri momenti di cronaca perché che raccontano ben altro, ci metteremmo a parlare di altro ovviamente, però dalla misura di questo immaginario. Gazzaniga è interessantissimo il personaggio, perché Gazzaniga è un poliziotto democratico di sinistra, sindacalizzato, con la barbetta all'orecchino, si presenta lì, linko invece nell'articolo una puntata delle Invasioni Barbariche in cui dialoga con Dario Bignardi, è molto attivo, almeno è stato su Twitter, è intervenuto su tante questioni di cronaca, aveva un blog in cui raccontava anche personaggi del mondo dello sport, quindi è la perfetta figura del poliziotto democratico, giovane, un po' fricchettone apparentemente, che poi quando vai a leggerlo bene o lo ascolti bene capisci che gioco fa più o meno intenzionalmente, è proprio la riproduzione dell'ordine in questo senso. Si presenta, dice cose che sono apparentemente critiche, ma la critica si ferma a un certo punto, non va mai a toccare in profondità. E il romanzo riflette assolutamente questa cosa. Sono interessanti perché hanno degli schemi narrativi assolutamente simili. 2 su 3 c'è una sorella malata, di personaggi che hanno lo stesso tipo di sofferenza, lo stesso tipo di disagio. A viso coperto è il più interessante perché c'è un gioco speculare tra ultra, manifestanti e poliziotti. La questione interessante è questa dell'odio, cioè infatti l'articolo l'ho intitolato Quando l'odio chiamo, la chiamata dell'odio, mi ricordo, che è lo stesso che riporto nel seminario, perché la questione di fondo è che la società è permeata da odio, la violenza è un fatto antropologico, quindi ci si mena non per ragioni politiche, ma perché siamo animali fatti in questo modo, ragioniamo in branchi diversi da loro e ce le diamo. E quindi in una società fatta di schifo, di istinti primordiali, insomma, molto più che obesianamente violenta, proprio una guerra di tutti contro tutti, che cosa succede? Che l'odio contagia, anche le persone buone vengono contagiate dall'odio, e quindi serve qualcuno che metta a posto questa cosa, qualcuno che contenga quest'odio. Questo qualcuno che è sostanzialmente la polizia. Quindi l'operazione è interessante perché comincia con un ridurre quella violenza a fatto antropologico. Il realismo sta qui, ti racconta la battaglia alla pari, non ti fa vedere i buoni e i cattivi, sono tutti cattivi, no? Tutti violenti, tutta gente a cui gli piace menare. Però poi che viene fuori? Che tra i due c'è un gruppo di buoni in realtà, perché a quel punto il discorso si pone a un altro livello. Serve il bene che contenga quel male, che gli impedisca di dilagare oltre un certo livello. E lì arriva la polizia. Sostanzialmente il discorso lo sto semplificando, ma neanche tanto, è questo lo schema. Quindi c'è una spoliticizzazione del conflitto. Da conflitto politico, io scendo in piazza perché sto a morire di fame, scendo in piazza perché sono illegale, perché lo Stato mi rende illegale, diventa io scendo in piazza perché non c'ho un cazzo da fare o perché sono cattivo. La teoria che trovo nei manuali di polizia, che usano le BON per spiegare il comportamento delle folle, che ci sono o gli esaltati che perdono il controllo, o i capi che sono dei criminali travestiti da politicanti, è uguale, uguale, uguale. Ci sono ragazzini che si fanno trascinare o soggetti che si spacciano ai viso coperto, no? C'è uno che sembra l'ex compagno, quello che ha fatto il G8, per realtà c'ha solo voglia di far casino, no? Sostanzialmente. Sto semplificando, ma poi il personaggio era questa cosa qui. Questo schema c'è. Criminalizzare, psicologizzare il conflitto, che appunto ha una matrice puramente antropologica, l'essere umano è cattivo, quindi chi va in piazza non difende mai interessi genuinamente politici, che ci piacciono o meno. È un soggetto che in realtà porta avanti o degli interessi personali o sta lì proprio per dare sfogo alla sua violenza. Il poliziotto rischia di caderci, quando meno in maniera cieca, perché si è fatto contagiare dall'odio e dalla violenza, ma se fa attenzione riesce a proteggere, arginare l'odio e quindi rappresentare il bene e l'ordine alla società. E siamo tutti felici e contenti. Noi tre, mica tanto, Non mica c'è solo noi nessuno. tre, però lo schema semplificando No, ma è vero. manco tanto è un po' questo qua, quindi quello che trovo io per quello è un realismo conservativo perché ti sputa in faccia questo iperrealismo nel rappresentare gli scontri, senza fare sconti anche al comportamento della polizia, ovvio, 1000 eccezioni, apparentemente, ma in realtà poi è del tutto asimmetrico, non, questa simmetria apparente, se tanto siamo tutti cattivi, quindi non è che c'è il bene e il male, in realtà non è così. Il bene c'è, è solo da una parte, perché l'altra parte non ha alcuna ragione, o qualunque ragione metta in campo non è una ragione reale, e quindi l'unica cosa è affidare a qualcuno il compito di proteggere la società da questo odio dilagante. Quindi manicheismo, non so qual è l'espressione adatta. Sicuramente la politica scompare, il conflitto scompare, qualunque analisi, anche diciamo, tu sei, cioè è vero, sei sfruttato, però me ne frega un cazzo, potrei anche dire questo, no? Cioè, un cinismo, come dire, iperliberale, non so come dire. Riconosco il fatto che ci sono gruppi sociali diversi in posizioni asimmetriche di potere, ma per me è giusto così, potrei anche metterla in questi termini. No. E questa è l'operazione apparentemente democratica. Faccio finta di interessarmi alle disuguaglianze, ma poi diluisco tutto in un brodo di violenza antropologica. E poi sbuca la polizia che deve difendere il bene, perché sennò dilagherebbe l'odio. E poi la stessa narrazione che fanno quasi tutti i media 99 volte su 100, né più né meno, l'abbiamo visto anche nelle ultime settimane, in questi ultimi giorni, quando si parla della vicenda di Alfredo Cospito, non ci sta nient'altro che la stessa rappresentazione: da una parte c'è lo Stato e dall'altra parte una indicibile marea anarchica, comunque vada violenta e cattiva, che non ha nessun motivo per andare in piazza, perché sta, se va in piazza sostiene non una battaglia politica, che è quella sul 41 bis, ma sostiene un terrorista cattivo che ha compiuto stragi, anche se non l'ha compiute, perché poi la sintesi è questa. Quindi, come dicevi, sono abbastanza d'accordo, magari non c'è un disegno, però c'è una visione, ha una visione, ha un immaginario che è quello di privare della controparte di qualsiasi contenuto politico, di prendere la complessità, buttarla al secchio e regalare, no, una lettura che è quella del mainstream, dei media mainstream, quella classica, che è quella che forse più aggrada le forze di polizia stesse, no? Vai Gianluca. Io mi ricollego, mo, sembra che rubo la roba che ha scritto Enrico, non è carino, ma insomma Enrico in quel lavoro che ancora non ha pubblicato lo dice bene. Quella spoliticizzazione passa attraverso che cosa? La rappresentazione della violenza da una parte, la violenza dei manifestanti, dei tifosi, degli occupanti, di chi vuoi, e dall'altra c'è la forza di cui la polizia, come dire, esercita il legittimo monopolio, fra mille virgolette ovviamente. Allora, c'è un progetto? No, l'abbiamo detto tante volte, io non credo che ci sia un progetto. Penso che ci sia il cinismo di un mercato che è NASA, quello che gli interessa. Sto 20 anni da Genova, benissimo, mi rivendo anche quell'esperienza e me la rivendo con varie salse quella roba. Non è che deve essere per forza la versione ufficiale quella che racconto. Posso anche raccontare versioni minoritarie, non alternative, minoritarie, ma che comunque mi fanno vendere. Perché per quello dico, non c'è secondo me dietro un progetto politico, c'è l'idea che devo vendere una quantità di libri in un mercato sempre più affollato di quel tipo di libri e quindi devo trovare il modo. E allora pure lì la ricombinazione dei generi, in quei libri che apparentemente si sono messi il cappottino noir, a cui dai quella coloratina, quella spolverata di noir, in realtà torna quel carattere che dicevamo all'inizio del giallo classico. Alla fine è la rappresentazione del bene secondo un senso comune quella che trionfa, al di là di quanto poi il poliziotto possa apparire inizialmente o antipatico e cattivo, oppure anzi simpatico e progressivo. Come lo metti, la metti. Come dire, quelle figure nei romanzi sono sempre portatori di, come dire, di una soluzione che cala dall'alto, di una soluzione anche quando si tratta dei immigrati, anche quando magari guardano con occhio benevolo addirittura gli occupanti. La soluzione alla fine del libro è sempre calata dall'alto ed è sempre paternalistica quando non autoritaria. Del resto questo è anche collegato al fatto che, come dire, il giallo per suo statuto, il giallo nel senso lato, il poliziesco, il noir, questo genere di letteratura rappresenta, come dire, i fondamenti dell'ordine costituito, la legge, la giustizia e chi le amministra. E allora, chiaramente poi, diciamo, come dire, l'immagine è quella. Cambiano nel tempo? Sì, cambiano, certo. Adesso c'è il poliziotto con l'orecchino, c'è il poliziotto che si fa le canne, lo dicevamo prima, ma sempre poliziotto è. Cioè, anche dal punto di vista della trama, non sto dicendo che sia l'eterna condanna all'eterno ritorno, sto a dire che alla fine quella figura, per quanto sexy rispetto a un certo mercato, deve comunque ribadire un ruolo, deve ribadire un ordine. E ci siamo giocati tutta quella valenza critica che in altri contesti i mascette, gli insomma, guarda, ma pure i Simenon, non i Maigret, i romanzi di Simenon riuscivano ad avere. Allora forse io quello che mi chiedo, ma lo chiederei pure a voi, ma non è forse proprio la dimensione seriale quella che di fatto impedisce o annacqua qualsiasi possibilità di critica? Mi colpiva una cosa che diceva prima Enrico, diceva no, io Manzini, dice un po' l'ho letto, un po', no scusa, su Montalbano lo dicevi Enrico, dice un po' l'ho letto, un po' l'ho visto in televisione. Ma questo è quello che capita sempre, con, o almeno che capita molto spesso con la letteratura di genere. Quando ha fortuna una certa serie, la duplichiamo in serie TV. E nelle serie TV riusciamo a annacquare ulteriormente, come dire, gli aspetti più disturbanti o più critici che magari potevano esserci nei libri, proprio perché è diretto a un certo pubblico. Allora, per citare appunto un romanzo di cui mi sono occupato per questo seminario che ho letto, per questo seminario che faremo domani, Castellaneta nel 75 scrive sto noir, molto violento, molto disturbante, che si chiama Notti e Nebbie, e dove racconta la storia degli ultimi mesi della Repubblica di Salò, prendendo come protagonista un commissario della polizia politica dell'epoca. Lui lo dice in una serie di interviste, dice: io volevo raccontare la violenza neofascista degli anni 70 e per raccontare quella violenza vado alle origini di quella violenza. Come la racconta quella violenza? Questo personaggio progressivamente nel romanzo, ovviamente non faccio spoiler, ma insomma è un cortocircuito in cui il romanzo trascorre in rapporti sessuali che lui riesce ad avere grazie al potere che esercita, in cui manifesta tutte le forme della violenza fascista. Noi quel personaggio, come dire, se leggo quel libro non mi sta per niente simpatico quel personaggio, è volutamente disturbante. Ma in quel modo, appunto, leggo un libro, ci penso sopra e quel libro mi fa, appunto, mi dà a riflettere su una violenza, e mi dà a riflettere su una violenza che passa dal pubblico al privato. Punto, ecco, allora, che volevo dire, forse è proprio, come dire, l'uscita serialità che lascia ancora margini per scritture critiche, per letture dalla parte nostra critiche. Allora, guarda, andando verso la conclusione, se no potremmo parlare sicuramente almeno un'altra ora. Io penso che ci sia un po' tutto, ci siano molti piani nel provare a spiegare il perché la maggior parte degli autori e autrici di questo genere usano degli stereotipi, possiamo parlare, no, ormai anche di stereotipi, no, di un certo tipo di rappresentazione da parte della polizia. Sicuramente ci sta l'educazione e la cultura di chi scrive, ci sta il poco coraggio delle case editrici che vanno un po' sul sicuro e cercano anche loro, no, di non disturbare, di continuare, no, a mantenere questo status quo. Io, se volete, ci metto anche il fatto che la maggior parte ormai di chi scrive hanno un'estrazione borghese e quindi della società hanno sempre soltanto quella visione, no? Quella visione che anche da sinistra è legge e ordine, l'abbiamo visto che fine ha fatto una certa sinistra negli ultimi 20-25 anni, ripetere delle parole d'ordine che non sono molto dissimili da quelle della destra. Penso che i piani siano diversi. Fatto sta che quello che abbiamo poi nelle librerie, quello che troviamo, no, o quello che va per la maggiore, c'è questo stereotipo di personaggio che è diventato appunto stucchevole, perché poi le storie raccontano, le storie quotidiane, i giornali, no, ci raccontano ben altro. Ci raccontano quello che è successo qualche notte fa in un bosco a Varese, di un uomo ammazzato, non si capisce ancora bene come, da un carabiniere in borghese con un fucile a palle di gomma, e che non, cioè, c'è una storia anche lì, no, particolare, che i giornali stanno derubricando, era uno spacciatore, come se il fatto che quell'uomo fosse o non fosse un pusher automaticamente si poteva ammazzare come un cane oppure no. Cioè, la realtà dice altro, e di questa realtà è vero che la fiction è fiction, però di questa realtà non c'è quasi nulla nelle nostre librerie. Quasi pochissimi autori e autrici, anche quelli più affermati, hanno quel coraggio di spingersi anche a un certo tipo di narrazione, appunto, che vada a disturbare, che vada a rompere e che non vada per forza ad accarezzare il lettore o la lettrice. Guarda, io ho due cose credo che un'operazione interessante da fare, ma qui non ho gli strumenti per farla, ma inviterei chi ne ha voglia a farla, è collegare quello che sta succedendo oggi rispetto al noir, in particolare quando è prodotto da soggetti appartenenti o vicini alle forze dell'ordine e alla magistratura, col processo di riforma della polizia, che ha avuto luogo negli anni 70, che è confluito nella legge dell'81, smilitarizzazione e sindacalizzazione. Per cui dicevo che Gazzaniga è interessante anche per questa dimensione un po' poliziotto progressista, sindacalista, che rappresenta quel pezzo lì di istituzione. E mi chiedo appunto, non lo so, non ho una risposta, anche come sono viste queste operazioni all'interno della stessa polizia, se fanno, giocano a se sono viste come un qualcosa di positivo, come una forma di washing, se sono viste come un'operazione troppo radicale. Lo stesso Schiavone, che ripeto, mi pare tutto fuorché un personaggio radicale, credo che abbia suscitato delle polemiche, non so se Alfano anni fa si indignò perché si faceva le canne e tutto quanto. Quindi è interessante vedere anche giocare con le contraddizioni anche all'interno delle stesse istituzioni, come vengono visti. Non c'è un disegno, però in alcuni casi questi soggetti portano avanti un'operazione, anche a prescindere dalle intenzioni dei loro autori, ed è interessante vedere appunto cosa succede, se incontrano il favore dell'istituzione di polizia o no. Questa è una domanda interessante. Surrealismo, segnalo, uscito proprio credo oggi un articolo e la serialità di una collega molto brava, Iside Ghiergi, l'incredibile realismo di Fauda sulla serie israeliana Fauda su Netflix, e ragiona proprio sul realismo, fa una bella differenza tra realismo narrativo e realismo, diciamo, politico. Questo apre alla dice ci può essere un realismo nella narrazione che è diverso da un realismo che veramente ha una portata sovversiva, lo dico semplificando, quindi ragiona su questo punto e si interroga sul meccanismo della serialità. Quindi non siamo, usciamo un attimo al noir in senso stretto, ma a temi collegati. Quindi sì, credo che ci sia molto lavoro da fare, una riflessione da portare avanti su questi temi perché sono centrali. Comunque, tornando a quello che dicevo prima, credo che la chiave di lettura sia interrogarsi sempre sulla presenza o meno di una capacità realmente critica dentro questi prodotti. La sensazione che in tutti i prodotti di cui abbiamo parlato, tranne quello che ha appena nominato Gianluca, che sto leggendo in questi giorni, sul suo consiglio, forse stasera lo finisco, stasera o domani, non ce n'è proprio la minima traccia. Ripeto, anche secondo me in alcuni casi, contrariamente alle intenzioni degli autori, alcuni pensano di essere realmente critici, pensano veramente di star facendo critica della loro stessa istituzione. Ma lì, se posso permettermi proprio due parole, ma lì torna quello che diceva adesso Fabrizio a proposito di una sinistra che ha abbracciato, a volte in maniera perfettamente consapevole, altre volte e anche peggio, in maniera inconsapevole, un pensiero che è di destra, un'idea di società che è di destra. Quindi in questo caso, come dire, non fatico affatto a credere che certi autori pensino di svolgere un ruolo, come dire, anche critico con le loro opere, quando poi invece finiscono semplicemente per legittimare l'esistente, per, come dire, per riprodurre l'ordine costituito. Ma questo, appunto, questo apre a tutta un'altra serie di questioni che vanno probabilmente ben oltre il giallo, direi, ben oltre il noir. Allora, concludendo, la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti è un libro da consigliare a chi ci ascolta. Senza, non per forza rimanendo nel genere, perché non per forza, però a voi la parola. Una cosa che avete letto ultimamente che vi è piaciuta particolarmente e di cui appunto vi va a dire, di invitare alla lettura. Io mi rigioco Notti e Nebbie di Castellaneta, semplicemente perché appunto è una delle cose più disturbanti e molto noir che ho letto negli ultimi tempi, ma Io me lo sono segnato questo qua, non lo conoscevo, quindi me lo vado a cercare. allora io se devo, però devo cambiare, cioè se devo Vai. consigliare qualcosa, esco però totalmente dal genere noir, quasi Esci. totalmente. Allora, Cacciatori nella notte di Osborne. È un bellissimo romanzo sulla Cambogia, che non, appunto, non c'entra nulla. No, mi ha fatto bene. È un autore che ha lavorato molto, ha vissuto, credo, ha lavorato molto, scritto sul sud-est asiatico, e quello mi ha colpito veramente, veramente tanto. Non vorrei però confondere l'autore, scusate, faccio proprio il bello della diretta. Ma non ti preoccupare, prendi anche il tempo. Nel frattempo, Appunto, noi stiamo concludendo questa chiacchierata, abbiamo provato un po' a mettere i due punti su come pensiamo che sia rappresentata la polizia all'interno dei romanzi di genere. Per romanzi di genere abbiamo parlato di quello spettro che va dal noir al giallo, ovviamente all'interno c'è il thriller poliziesco e via dicendo. Tra l'altro ci sono anche dei filoni negli anni che si sono sviluppati altrettanto interessanti, ma che rientrano in questo formato. Cacciatori nel buio, scusate. Perfetto, allora io vado a ringraziare Enrico Gargiulo, Gianluca Bascherini, con voi non ci salutiamo attraverso un addio, ma con un arrivederci, perché la prossima volta che avete qualcosa da consigliare, chiamateci, che magari ci facciamo una chiacchiera anche sulle letture, su qualche lettura in particolare. Grazie ancora. Grazie, Grazie. grazie.